Il nome Impresa è rimasto identico, ma l'ultima evoluzione della celebre berlina della casa nipponica segna una svolta rispetto al passato. A cominciare per esempio dalla carrozzeria a due volumi, nel solco della tradizione invece l'impostazione meccanica che prevede l'ormai classico motore 4 cilindri boxer e la trazione integrale. A metà febbraio arriverà nelle concessionarie la 2.5 VRX STI Turbo, senz'altro la più amata dagli appassionati del genere che abbiamo avuto modo di guidare sulla pista di Adria. Intanto abbiamo provato la versione cosiddetta normale. Eccone le caratteristiche principali. Nome: Subaru Impresa 2.0 R4QAT. Carrozzeria 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,41 metri, larghezza 1,74, altezza 1,47. Motore anteriore longitudinale 4 cilindri contrapposti di 1994 cm3. Potenza 150 cavalli, trasmissione trazione integrale permanente, cambio automatico a 4 marce. E infine il prezzo, 26.141 euro.